E allora buon pomeriggio a tutti e a tutti, la vostra Dunin è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ti sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria c'è Attica Blues. Prima puntata dell'anno 2020. Con la speranza che quest'anno vi sia cominciato bene, che ve la siete scialata durante le feste che hanno preceduto l'inizio dell'anno. Allora noi, visto che siamo vetero, cominciamo questo 2020, il ricordo del 2019 con le uscite che hanno caratterizzato quest'anno 2019. Noi ci siamo presi qualche giovedì di stop a cavallo delle feste per ricominciare più carichi di prima. Sì, sì, lo siamo. Buon anno a tutti. E appunto, come hai detto, parleremo degli album più influenti, quelli che hanno un po' caratterizzato il 2019 per quel che riguarda la black music. E abbiamo una lista di artisti, e iniziamo con gli artisti reggae, e in particolare con quelli che sono poi nominati per i Grammy Awards, la cerimonia che si terrà allo Staples Center di Los Angeles il 26 gennaio. E allora, artisti reggae che alcuni storici, alcuni ritorni storici, uscite discografiche di gruppi, ma anche qualche cosa di più moderno e originale. E allora cominciamo con gli Steel Pulse, la loro Natti, che in realtà è un acronimo. Sì, questo è tratto dal loro album uscito appunto nel 2019, Mass Manipulation. Ricordiamo gli Steel Pulse, gruppo storico inglese, addirittura il primo disco è del 1978, Allsworth Revolution. È loro che mancavano da tanto con una nuova uscita discografica. Infatti l'ultimo disco uscito era del 2004, African Holocaust. Natural and true to yourself, to be natural, to be natural, natural and true, natural and true, to be natural, natural and true, yes. Got a natty natty, 'cause you can never die in vain. So much persecution in a Rastafari name. He's never ever shed flesh and natty dread, weird like a lion's mane. Because you are resisting pressure of the system, so many people can't insane. To be natural, natural, to be natural and true. To be natural, natural, natural and true. To be natural, to be natural and true. Natural, yeah, natural, natural and true, yeah. I leg on the fashion, fashion, 'cause you can hold your head up high. Make it your decision, it's up to you to qualify. Got to go with how you feel, keeping it real, so natural till you're satisfied. The Uber has revealed to us the seven seals, not the cog up on the line. Natural, be natural and true. Be natural. Allora, erano passati 15-16 anni dal loro ultimo disco, ma il sound rimane sempre inconfondibile. Natural. Un sano reggae suonato. I più appassionati si ricorderanno che sono venuti a Roma per il trentennale della loro attività. The fire, light my rizla, dreadlocks down to my toes. Shall be there in my grave with my bones, yeah. Natural and true, natural and true, natural and true, natural and true. Steel Pulse, che come detto concorreranno per la vittoria del Grammy, ma loro che poi in realtà hanno già vinto come miglior album reggae nel 1986 per l'album Babylon the Bandit. E quella di quest'anno sarà la loro nona nomination ai Grammy Awards. E proseguiamo con un brano tratto da un album di vari featuring, di vari artisti. Sì, loro sono Sly & Robbie, una delle ritmiche più potenti della Giamaica. E nel 2019 sono usciti con The Final Battle, Sly & Robbie versus Roots Radix. Un album poi in realtà ricco, ricchissimo di ospiti. C'è Lee Perry, Luciano, Toots & The Maytals, Damian Marley. Insomma, veramente artisti nuovi, artisti vecchi. E noi però abbiamo scelto il brano in compagnia di Freddie MacGregor. Glory. Faced great tribulation. together, singing songs of joy and praise. Holding precious meditation, praising Jah with all my heart. So I say glory, glory to the Father. Come on, let us praise His name. Allora, l'hai nominato prima e non poteva mancare nelle nostre selezioni. Sto parlando di Damian Junior Gong Marley, questa volta ospite dei Third World. Questa la loro You Are Not The Only One. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one, you're not the only one. Say age is a number, third round no study match. Richie Daly and me done, age around a top of tops. Up to now, no boy no play guitar, we're bad like Uncle Gat. Morris gave a proper son, Norris played for Super Gat. Oh, one band so full of talent, like the list just never stops. Going eruption, fit like Viggle and can sprint a dozen laps. Steve Locke, a engineer, truck back a Fiat buck. Give the legend them, them props. Real uptown rebel, self with reggae on the map. More money, more problems. Not to say I would have swapped, but it's slowly at the top. Some will say them are your friend, but are you alone? I spend, yes, till every man a shop. I want the newest things for cop. Man, I want all our rems, cause you don't know the shreps. Things sticky like sour sap. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one, you're not the only one. Say age is a number, third round no study match. Richie Daly and me done, age around a top of tops. Up to now, no boy no play guitar, we're bad like Uncle Gat. Morris gave a proper son, Norris played for Super Gat. Oh, one band so full of talent, like the list just never stops. Going eruption, fit like Viggle and can sprint a dozen laps. Steve Locke, a engineer, truck back a Fiat buck. Give the legend them, them props. Real uptown rebels, help with reggae on the map. More money, more problems. Not to say I would have swapped, but it's slowly at the top. Some will say them are your friend, but are you alone? I spend, yes, till every man. L'album in questione si intitola More Work To Be Done e Damian Junior Gong Marley ha vinto il suo Grammy Award nel 2018 per l'album Stony Hill, e invece l'anno scorso ad aggiudicarsi il Grammy come miglior album reggae furono Sting in compagnia di Shaggy. You're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one. The only one. If you're out there somewhere feeling lonely, you're not the only one. You're not the only one. So come on inside and tell me how you're feeling. Tell me all about the burdens that you bear. They say good conversations can be healing. Journey. But if you ever wanna turn back on somewhere feeling lonely. You're not the only one. You're not the only one. E allora, sempre dalla famiglia Marley, lui è Julian Marley, questa è la sua Are You The One? Dances away, giving you one thing that brings change. Sure. You're sure to rock when I play. Reggae is my name. Julian Marley, che nasce a Londra il 4 giugno del 1975 e poi è cresciuto fra Inghilterra, Giamaica e anche Miami, dove avevano era stato coinvolto nella società di produzione e beneficenza familiare proprio della famiglia Marley, la Ghetto Youth International. E Marley, che è candidato con l'album, questo album che ci stiamo ascoltando, che si chiama The As I Am, e in realtà poi era stato già nominato nel 2009 per il miglior album reggae con l'album Awake. Allora, come ultima artista reggae nominata ai Grammy abbiamo scelto una donna, lei è Coffee, questa è la sua Rapture, classe 2000 per lei. When them see the lyrical doctor, coffee hotting up the temperature for them see. Me know the man fi but friend me fi envy. Yo, I pass me see people around me so plenty, but me pocket na empty. Me need space, so Lord, yeah me see them a watch me to a cop now. Me see through me a beating for lockdown. Sitting in a the Bentley, picking in a the century. A drench me, but fi me fire go blaze. And I see him way, so me see the enemy a protest. Whoa. and him could come the closest. No, I can feel still I do the mostest. I want me to put in the work and just the process. Oh, yes, that's how we grind right now. Coffee with the prime time flow. Time for we accumulate the kind. E il nome vero di Coffee è Mikaela Simpson, che è una cantante, una rapper, una DJ e una chitarrista giamaicana. Lei appunto, come detto, è nata nel 2000, giovanissima, a Spanish Town, alle porte di Kingston, e ha iniziato a cantare, come spesso accade, nel coro della chiesa, e appunto nel 2019 ha pubblicato questo suo primo EP dal titolo Rapture, addirittura con la Columbia Records. But when my sick lyrics, my don't fidget with it. Y'all did it, ball with it, let me go, lick it. Bro, my fine and ready. Been a tell from who was a child, me ready. The God who me serve the same time, you see. My eye, the blessing, you can't spoil me. Ready, you can't fire me, me see me too pro. Found, killing with the words and with the pro. Now, when me come around, if up the whole town. Anyone me show up is a show down. Yo, every African crew a bubble hotter than stew. We still not belong till the Vatican slew. Me we hold still until the coffee turn blue. Tell them go and chill until the coffee turn blue. Coffee come in like a rapture, and everybody get captured. Play a sleep up like a helicopter when them see the lyrics and chapter. Coffee come in like a rapture, and everybody get captured. Play a sleep up like a helicopter when them see the lyrical doctor. Beh, diciamo che dovendo votare per il Grammy di quest'anno nella sezione reggae, io voterei per Sly & Robbie. E io invece per il ritorno sulle scene degli Steel Pulse, assolutamente sì. E allora cambiamo genere, ci spostiamo a Brooklyn. Ci spostiamo a Brooklyn. Un gruppo inciso per la Dapton. Per la Dapton, e anche quest'album è uscito per la Dapton. Anzi, in realtà è un singolo che anticiperà l'album che uscirà nel febbraio del 2020. Si chiamerà Chronicles. Loro sono ovviamente gli Antibalas, un gruppo che ha mischiato soprattutto le sonorità afrobeat con quelle più moderne. Loro hanno iniziato con la Ninja Tune per poi spostarsi all'inizio degli anni 2000 a pubblicare per la Dapton. Questa è la loro Fight and Finish. Let's break the break. The good bitch fight to go. let's address the rules. No, oh no. No, papa rapa tigra. No, wuru wuru for I. No, mago mago backstabbing. No, penny penny wayo. Rules are rules. No exception. Get knowledge. But we work it together, let's go. Round three. Oh, yeah, oh. Rimaniamo sul genere afrobeat, rimaniamo alla Dapton, ma cambiamo gruppo. Loro sono The Budos Band, questa è la loro The Enchanter. Questo album si chiama Five, è uscito a novembre per questa formazione che si ispira anche all'Ethio Jazz di Mulata Statke, ma anche Afrofunk, R&B e qui anche delle ispirazioni più hard rock e psichedeliche. E allora facciamo anche un excursus nelle uscite jazz del 2019. Sì, partiamo con questo Heroes Are Gang Leaders, che è un collettivo più che una band, ed è guidato tra New York e Washington dal carismatico Thomas Ellis, che è un poeta, un docente, un attivista e un fotografo, e dal sassofonista James Lewis. E della partita poi fanno parte anche un agguerrito manipolo di cantanti, performer e rapper, tutti insieme appassionatamente per dare un tributo al grande Amiri Baraka. Questa è la loro superstar. Take your head. scolded by the torture of escaped assassination attempt. We'll be in the game. The terrible numbness of corpses heavy at our death. They take your head. Concludiamo adesso con due pianisti. Il primo è Abdullah Ibrahim, che è stato tra l'altro uno dei grandi protagonisti del Roma Jazz Festival, con una grandissima esibizione in solo, una esibizione molto molto toccante. Ma lui, classe 1934, sudafricano di nascita, è uscito il 28 giugno del 2019 con un album The Balance, accompagnato dal gruppo Ekaya, e noi ci ascoltiamo questa Yabula. E a proposito di commistioni fra il jazz, l'hip hop, il rap, parliamo adesso del nuovo disco di Robert Glasper, Fuck You Feelings, uscito il 3 ottobre 2019, e anche qui è un pianista. Liquid Swords. Concludiamo con un ultimo pianista, forse il più rappresentativo dei pianisti di questo secolo, posso dire agilmente. Sì, lui purtroppo ormai qualche anno che non fa più concerti. Però continuano a uscire vecchie registrazioni. Assolutamente sì, ogni anno l'ECM fa uscire insomma una registrazione di qualche concerto particolare. Qua in questo caso è un concerto registrato a Monaco nel 2016. Parliamo ovviamente di Keith Jarrett. Questa è la sua Part 3. Thank you. Allora, noi con questo Jarrett vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo, sempre puntuali dalle 16, più o meno un quarto d'ora accademico. Vi ricordo che se vi state sintonizzando solo adesso, a breve troverete il podcast di queste come delle altre puntate di Attica Blues sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo ovviamente anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, con una ricchissima playlist tutta farcita di black music. In tutti i casi basta cercare Attica Blues.